682. Sgonfiotto di farina gialla. Questo piatto i francesi lo chiamano soufflé e lo notano come entremet. Io sgonfiotto, se date il permesso, che servire potrà di tramesso. Latte mezzo litro, farina di gran turco grammi 170, zucchero grammi 30, burro grammi 30, uova chiare numero 6, rossi numero 3, un pizzico di sale. Fate una farinata, cioè versate la farina nel latte quando questo bolle, o meglio se volete preservarla dai bozzoli, stemperate prima la farina con un poco di latte freddo e versatela nel latte bollente mescolandola bene. Fatela bollir poco e quando la ritirate dal fuoco aggiungete il burro, lo zucchero e il sale. Allorché sarà ghiaccia, disfate nella medesima i rossi d'uovo e per ultimo versate le chiare montate ben sode. Mescolate con garbo e versate il composto in uno stampo liscio o in una cazzaruola che avrete unta col burro e spolverizzata di farina di grano. Cuocetelo in un fornello con fuoco sotto e sopra e quando avrà montato servitelo subito, onde se è possibile resti ben soffice e non s'acquatti. Meglio è, a mio avviso, far questo piatto in un vassoio che regga il fuoco e portarlo in tavola senza muoverlo. Questa dose basterà per 6 persone.